Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo di un grandissimo personaggio della scena musicale mondiale, un personaggio che però di musicista ha ben poco, e insomma non è un virtuoso della musica rock, non è un Jimi Hendrix, un Keith Emerson. Lui teorizza la figura del non musicista, quello che va oltre il virtuosismo, che privilegia la teoria sopra alla pratica. Stiamo parlando del immenso Brian Eno, musicista ma anche artista, producer, guru di una filosofia del suono totalmente diversa. È stato uno dei primi a arrivare alla musica rock o pop provenendo dal mondo dell'arte, insomma con un approccio alla musica molto concettuale, uno per il quale essere un artista è soprattutto una responsabilità. La responsabilità di un artista diventa quella di inventare un sistema in grado di produrre il proprio lavoro, piuttosto che limitarsi a produrlo. Il risultato di questa impalcatura concettuale è una ricerca che va oltre la musica, arriva allo studio della musica come suono, come materia per riempire spazi, luoghi, emozioni. Non a caso Brian Eno è l'inventore della musica ambientale, la musica per gli aeroporti, per quegli spazi che hanno bisogno di essere arredati da suoni pensati apposta per loro. E andiamo per gradi. Però dunque, Brian Eno nasce il 15 maggio del 48 nel Suffolk. Viene battezzato Brian Peter George Eno, il padre è postino, la madre è di origine fiamminga, lui vive vicino a una base aerea americana, insomma i suoni dei motori degli aerei mischiati alle note del rock and roll che proviene dalla radio accesa lo fanno innamorare di quella che lui comincia a chiamare la musica marziana, e l'influenza della base si fa sentire molto perché nel suo piccolo paese ci sono quasi 17.000 soldati americani che portano la musica, la loro cultura, ma anche forse una ventata d'aria fresca nel tradizionalissimo establishment inglese. Questa è un'influenza che si rivelerà importante. Fin da bambino, lui è un bambino solitario, va a caccia di fossili, ha una disposizione artistica evidente. A 11 anni entra al St. Joseph College, che è una scuola cattolica dove gli studenti vengono incoraggiati a includere una parte del loro retaggio cattolico nella loro personalità. Per questo motivo Eno decide di aggiungere al suo nome quello del patrono degli insegnanti, diventa Brian Peter George Saint Jean Baptiste de la Salle. Eno, e insomma un nome altisonante che enfatizza quell'area un po' aristocratica che lui già possiede e che vuole darsi e continuare a avere. Dopo le medie lui entra nella scuola d'arte di Ipswich e lì trova l'ambiente giusto per lui. L'interesse primario nell'essere un artista per me è che si tratta di un sistema di conoscenze, è un modo di indagare il mondo. È diverso da un'indagine razionale del mondo, perché procede semplicemente attraverso l'emozione. E quello che trovo più interessante è che quando si lavora, ci si ritrova a muoversi verso una zona di incertezze. Il capo del corpo insegnante in quel liceo di Ipswich è anche lui un artista, si chiama Roy Ascott, è uno che fa ascoltare ai suoi studenti My Generation degli U e insegna che per imparare l'arte bisogna disimparare e fare arte perché il processo è più importante del prodotto. Insomma, è un momento molto creativo della scena artistica mondiale, anche e soprattutto inglese. Un altro insegnante, per esempio, fa scoprire i lavori sul silenzio del compositore americano John Cage, che per primo parla di suono musicale e non musicale, che è il concetto che diventa la base del lavoro di Brian Eno. Credo che l'ambizione in negativo è una grande parte di ciò che motiva gli artisti. È spingere contro qualcosa. Quando ero un ragazzino, la mia ambizione in negativo era che non volevo un lavoro. E nel 66, dopo il liceo, Brian Eno passa alla Winchester School of Art e un giorno trova come relatore Pete Townshend degli Who, che nel frattempo è già leggenda, benché giovanissimo. Townshend tiene una lezione su come usare il registratore come strumento musicale e per la prima volta Brian considera l'ipotesi di poter fare musica, ma non sa suonare, eppure vuole fare musica. È un momento importante che ben riassume il critico musicale Simon Reynolds. È una delle idee più eretiche per gli inizi degli anni 70, quella del non musicista, quando non hai bisogno di far pratica nella tua stanzetta, imparare la tecnica. C'è invece un allegro disprezzo per il mestiere, il che era un taglio radicale con gli anni 60, con quelli che erano andati in scuole d'arte come Eric Clapton, che cercavano di imparare bene a suonare uno strumento, a studiare per diventare un virtuoso. Ino invece introduce questa nuova idea nelle scuole d'arte, che puoi essere un artista senza avere particolari abilità. Il falco e il gabbiano. E nel 69 Brian Eno si laurea al Winchester Art College. Lui pensa ancora di non poter essere un vero musicista, anche se aveva già fatto parte di qualche gruppo di musica avant-garde, prova a insegnare arte. Però nel 70 incontra un suo vecchio compagno al Winchester, si chiama Andy McKay, suona il sassofono e gli strumenti a fiato, gli chiede se si diverte ancora a registrare dei nastri magnetici. Andy McKay suona in una band, hanno bisogno di incidere dei demo. Intanto gli presta un piccolo sintetizzatore che si aziona con un joystick. Le prove di Brian Eno piacciono molto a questo gruppo e questo gruppo lo invita a unirsi a loro. Loro si chiamano Roxy Music e il cantante è un certo Brian Ferry. Determinare il ruolo di Eno nei Roxy Music non è facile. In generale, tutto ciò che risultava musicalmente strano e particolare, ogni effetto speciale in ognuno di quegli album, insomma, per ogni cosa di questo genere, la responsabilità era di un solo uomo, Eno. E così il giornalista David Toop spiega il ruolo di Eno nel gruppo. All'inizio la sua partecipazione ai Roxy Music è un misto tra un ingegnere del suono e un membro vero e proprio, però la sua personalità si rivela in tutto il suo splendore, diventa fondamentale, come ci dice sempre David Toop. Eno era un individuo unico nel suo genere. Era oltre lo sfarzo. Forse era persino più stravagante di Bowie. Eno era quello con le piume, il rossetto arancione, l'ombretto viola. Era androgino. Era così magro che sembrava uscito dall'ospedale. Impersonava il glam rock degli anni 70. Gli altri dei Roxy Music avevano invece elementi che ricordavano gli anni 50. Per questo non sembravano starci tanto. Eppure funzionavano tutti insieme. E parte della ragione è perché la loro musica rifletteva tutte queste immagini. E i primi due album dei Roxy Music piombano nella musica inglese come delle folgori, perché sono dei dischi veramente particolari, pieni di quella propensione artistica che loro avevano. Io mi ricordo, io ho fatto due dischi con Andy McKay al sassofono, e quando la prima volta gli hanno detto vuoi leggere le parti, lui ha risposto a me non interessano le parti, voglio che mi traduciate i testi. Quindi avevano proprio, come dire, un'attitudine artistica totalmente nuova. Bene, i due album di cui parlavo sono l'omonimo Roxy Music con la copertina che richiama le pin-up degli anni 50 e poi For Your Pleasure con Amanda Lear sulla copertina che tiene al guinzaglio una pantera nera. I brani sono di Brian Ferry, ma il vero architetto sonoro della band è lui, è Brian Eno, e le sue digressioni al sintetizzatore, il suo modo di organizzare la band aggiungono profondità e unicità alle melodie un po' da crooner di Brian Ferry. Ma due personalità forti come quelle di Brian Ferry e Brian Eno convivono con molte difficoltà, perché i punti di frizione sono parecchi e le piume, i corsetti di velluto, le paillette che indossa Brian Eno distolgono un po' il pubblico dagli smoking di Brian Ferry, e i giornalisti intervistano Eno perché la grande novità è lui, e lui non si fa problemi a chiacchierare con tutti, ha più disponibilità rispetto all'atteggiamento un po' ombroso del frontman di Brian Ferry. Eno non è solo bizzarro, è un uomo molto intelligente, questo piace alla stampa. Ero quello più facilmente fotografabile dei Roxy, che non vuol dire che fossi quello più attraente, ma se volevano un articolo su Roxy, c'era sempre una mia fotografia. Così il mio viso è diventato molto conosciuto e così la gente pensa che sia tu il leader della band, il che è proprio ciò che Brian non sopportava. E poi ci sono le donne, perché Brian Ferry, insomma, è uno che con le donne ci sapeva fare, è sempre stato circondato da modelle adoranti, ma anche Eno non scherzava. Il periodo è particolare, insomma, negli anni 70 si sperimenta molto sul sesso, e Brian Eno è uno che parla di porno, parla di maratone sessuali con sei donne alla volta, dice di praticare il sadismo, ama stupire, convive con due donne contemporaneamente. Insomma, le groupies lo ribattezzano The Refreshing Experience, cioè l'esperienza rinfrescante. Chrissy Hynde, prima di fondare i Pretenders, fa la giornalista, intervista Brian Eno e lui, preso dall'entusiasmo, le mostra in diretta il pube per farle vedere che si è rasato i peli, esclamando: sono rasato come i giapponesi, ti do una dritta, i giapponesi saranno di moda in futuro. Chissà se ci aveva preso sui giapponesi, probabilmente dal punto di vista, come dire, industriale sì, dal punto di vista sessuale un po' meno. Sicuramente tutto questo non faceva bene alla relazione Brian Ferry, Brian Eno, Roxy Music. È stato il tipico scontro dell'ego di giovani maschi. Ho avuto un sacco di attenzione da parte della stampa e questo ha dato un'impressione distorta su chi fosse la leadership creativa della band, quando invece la band era assolutamente la band di Brian. Due galli in un pollaio, uno se ne deve andare, e lo fa Brian Eno, lo fa senza problemi, perché a lui interessa soprattutto la sperimentazione. Se non può farlo con i Roxy Music, allora sarà meglio cambiare, continuare da solo il suo percorso come non musicista. Infatti verrà sostituito invece da un musicista molto talentuoso, un pianista violinista che si chiama Eddie Jobson, e il percorso di Brian Eno va altrove, un percorso rivoluzionario, un periodo di grande di sperimentalismi. Sentiamo di nuovo il giornalista David Toop. Era il musicista contro il non musicista. E i più erano pieni di pregiudizi contro Eno, perché lui non era un grande suonatore, mentre loro lo erano. Lui invece non era interessato al virtuosismo o alle abilità tecniche. Per gli altri la musica era suonare. Per Eno era funzionale ad altri discorsi, all'arte. E questo creava tutte delle gelosie da parte di chi invece suonava uno strumento per 15 ore al giorno da quando aveva 10 anni. Quando lascia i Roxy Music, Brian Eno rimane comunque con l'Island Record, la stessa etichetta, e esce con due album molto a distanza ravvicinata. Il primo si chiama Here Come the Warm Jets e il secondo Taking Tiger Mountain by Strategy, con il titolo che viene ispirato da una serie di cartoline sulla Cina di Mao. Nessuno dei due album naturalmente raggiunge le classifiche, non è questo lo scopo di Brian Eno, però i giornalisti ne parlano benissimo, ma soprattutto, come dire, sono album che rimangono nella storia come esempi di sperimentazione unita a grandi canzoni, e rimangono nella storia più degli album dei Roxy Music di quel periodo. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Brian Eno, uno dei più grandi musicisti degli ultimi 50 anni, ma soprattutto un trasformatore del concetto della musica tradizionale. Uno non rinchiudibile in un solo status, un produttore, un compositore, un filosofo della musica, un artista, un creatore di cultura, tuttora dagli esordi con la band dei Roxy Music ai primi lavori come compositore, poi l'invenzione dell'ambient music e poi la produzione di grandi artisti come i Talking Heads, gli U2, i Coldplay. Insomma, Brian Eno ha sempre cercato un tratto diverso nel modo di affrontare la musica, un approccio più intellettuale, però sconfessando le snobberie artistiche nei confronti del suono. Quando ho lasciato il college, ho insegnato per un po' e mi sono sempre più interessato a cercare di evolvere alcune di queste idee nella musica rock. La musica d'avanguardia è ferocemente intellettuale, ferocemente antifisicità. Mentre il rock è ferocemente fisico e ferocemente anti-intellettuale. Volevo cercare di trovare un incontro fra i due, nel quale nessuno avesse paura dei punti di forza reciproci, I musicisti rock hanno paura di qualsiasi tipo di discussione riguardo a quello che fanno. Invece io mi interesso di questo genere di discussione. È il mio forte. E quindi non intendo smettere. E dopo i suoi primi album, Brian Eno non poteva non incontrare Robert Fripp dei King Crimson, due persone destinate a fare qualcosa insieme. Infatti esce No Pussy Footing, effetti speciali sulla chitarra di Fripp, dei loop che vengono chiamati Frippertronics. Insomma, a Brian Eno piacciono queste collaborazioni. Nel 74 collabora con Kevin Ayers e con Nico e con John Cale per un disco che sarà storico, si chiama Primo Giugno del 1974, un live che vi straconsiglio. Sono sempre incline a fare le cose molto rapidamente, il che presenta evidenti vantaggi. Sei costretto a lasciare tutti gli errori, e gli errori sono sempre interessanti. I Velvet Underground, per esempio, sono gli epitomani della musica piena di errori, e questo rende la loro musica molto sottile e bella. E dopo questa esperienza, un'altra esperienza fondamentale per la musica rock di quegli anni, quell'album con l'acronimo ACNE, Ayers, Cale, Nico e Eno. E poi, dopo questi memorabili eventi, Eno si deve fermare a causa di un incidente. E però, come spesso capita ai grandi, questo incidente diventa un colpo d'ala. Un incidente in macchina che costringe Brian Eno a rimanere a letto per parecchi mesi. In queste lunghe giornate di malattia lui realizza quanto la musica possa assumere la stessa importanza della luce o del colore, mescolandosi a un'atmosfera senza stravolgerla. Insomma, capisce che la musica può diventare il tessuto di base dell'esperienza sensoriale di ognuno di noi. Notai che ero sempre più seccato dal fatto che la musica cambiasse continuamente stato d'animo ogni 3 o 4 minuti. Mi dava sui nervi. Non volevo che il mio umore continuasse a cambiare così velocemente. Così iniziai a registrare cassette con lo stesso tipo di mood. E così iniziai a chiedermi come mai non esistesse nessun disco con questo tipo di musica. Perché non esiste qualcosa che ti offra il luogo, la possibilità di restare in uno stato d'animo che ti dica: ecco, è tutto qui, niente che cambi, che ti piaccia o no. Nothing much is gonna change, take it or leave it. Ne nasce così uno studio sulla musica d'ambiente, uno studio del quale si serviranno a centinaia. Realizza una serie di dischi, tra i quali il più famoso è Music for Airport, ma ne fa molti altri. Questa sensazione si concretizzò un giorno che ero seduto in un bellissimo aeroporto, quello di Colonia. Era una domenica mattina, il sole filtrava attraverso questa bella architettura, uno spazio molto alto, con un lato tutto in vetro. E c'era della musica pop davvero stupida e idiota come sottofondo. E io pensai che nessuno si rendeva conto del problema. Si mette tutta l'attenzione nell'architettura e nell'ambiente e non nella musica. Così ho iniziato a pensare: se sei in un aeroporto, che genere di musica vorresti sentire? Non può avere una narrazione, deve essere fatta di emozioni più che di storie. A feeling rather than a story. Naturalmente Eno non è uno che può lavorare su un solo frangente, su un solo fronte. Intanto sforna un altro album molto importante, Before and After Science, forse il suo ultimo disco così rock, e poi va oltre, perché lui vuole collaborare, lavorare con altre persone, mischiare generi, sperimentare. Il lavoro di producer ormai si sta affiancando a quello di musicista, e quindi la sua capacità innovativa è perfettamente funzionale a questo lavoro. La produzione è una cosa che puoi affrontare in due modi diversi. Da una parte, il ruolo del producer è quello di fare il lavoro più accurato possibile per rendere una performance al meglio. Oppure, il ruolo del producer è quello di utilizzare lo stesso studio come fosse uno strumento che in qualche modo collega e tira fuori il meglio possibile dagli strumenti di una performance. E se questo vuol dire distruggere completamente il materiale grezzo esistente e costruire qualcosa di completamente nuovo su queste macerie, io sono preparato per questo compito. E così Eno comincia a lavorare con artisti ai quali cambia la vita. David Byrne, i Talking Heads, che creano due album, More Song About Buildings and Food e Fear of Music, e poi un album importantissimo fatto da Brian Eno con David Byrne, My Life in the Bush of Ghosts, che è un disco direi pionieristico. E poi c'è un altro colpo d'ala spaventoso, perché Brian Eno produce l'album di debutto dei Devo, Are We Not Men, We Are Devo, un altro di quei dischi fondamentali per i quali vi dico, insomma, se non lo conoscete un po' vi dovete vergognare. E poi collabora con David Bowie nel suo periodo berlinese, e è sul palco con David Bowie, insomma è il periodo che si chiude con Heroes, vede Brian Eno e Bob Fripp a fianco del Duca Bianco, e poi lavora con gli U2 o gli U2 come preferite, The Unforgettable Fire, The Joshua Tree e Acton Baby sono prodotti da Brian Eno. E poi arrivano i Coldplay, un altro gruppo ai quali cambia la vita, perché alcune intuizioni ritmiche dei Coldplay sono sicuramente di Brian Eno. È evidente che una figura come lui non può fermarsi solo alla musica, lavora anche a progetti di video installazioni, utilizza le luci per creare opere d'arte, collabora con Laurie Anderson a un progetto multimediale Self Storage dove il suono incontra l'arte. Sono più interessato a portare le belle arti dalla loro posizione santificata in qualcosa che alla gente piace fare e vedere. Qualcosa che fa parte del loro comportamento sociale, cosa che ad esempio la pittura attualmente non fa. Oggi la pittura non è un'arte per le persone, mentre la musica rock lo è. Oggi Brian Eno è riconosciuto come uno dei più grandi artisti contemporanei, è un non musicista che ha fatto per la musica molto più di tanti musicisti, è uno sperimentatore, è un genio che ha costruito la sua storia sull'essere un antigenio e ha coniato perfino una nuova parola, genius, cioè il potere che scaturisce da un gruppo di persone che lavorano assieme, perché come dice lui, genius è individuale, genius è una comunità. Probabilmente è per questo che è un uomo che vive la sua vita ancora con così grande curiosità e che si lascia coinvolgere in tanti progetti in giro per il mondo. Ho una vita meravigliosa, faccio più o meno quello che voglio e l'unico vero problema che ho è chiedermi cos'è che voglio. E con questa frase chiuderei ricordandovi che ha un bellissimo profilo Twitter Brian Eno, dove mette delle foto meravigliose, storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto e addirittura nel volare in alto hanno preso delle persone e le hanno portate in alto con loro, persone come Brian Eno che hanno rivoluzionato il concetto di arte e comunicazione. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi sui miei, sui nostri social, Twitter, Facebook, insomma sapete che potete trovarmi quando e come volete. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.